בלו טיים. בלו טיים. בלו טיים. בלו טיים. 21 e 3 minuti. Buonasera a tutti. Blu Radio Veneto con voi anche questa sera. Gil Facchinelli in vostra compagnia con Maurizio Calzavara. Stranamente per me a lunedì. E stranamente per te a lunedì. Buonasera Gil, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti voi. Allora, questa sera ragazzi abbiamo un ospite, possiamo dire di casa nostra. Sì, no, sì, Maurizio? All'incirca, all'incirca. Cosa dici Limone, un ospite di casa nostra? Assolutamente di casa nostra. Sì. Buonasera Limone. Buonasera a tutti, buonasera Maurizio, grazie dell'invito. Abbiamo anche Paolo che ti segue questa sera. Buonasera Maurizio, un po' più vicino. Un po' più vicino Paolo. È un piacere rivederti. Dopo esattamente, da un po' di anni. Sei già stato ospite Paolo. Sì, è stato ospite con un'altra, con un'altra band. Un po' di anni fa. Quanti anni fa Paolo, ti ricordi? Non ho idea. Beh, un po' di anni fa. 7-8 anni fa. Quindi siamo ancora vivi, cari ascoltatori, e da 20 anni facciamo rock, anche di più, molto di più. In ogni caso siamo qua. Cosa dici Limone? Cosa dico? Che sono felice. Sei un po' sudato perché l'acqua, sì, hai preso un po' di acqua. Fortunatamente siamo riusciti ad arrivare puntuali. In tempo, esattamente. Per strada abbiamo trovato il primo temporale estivo che ci ha rinfrescato e quindi siamo veramente pronti e freschi per fare 4-5 canzoni. Certamente sì. Maurizio, allora presentiamo un attimo questo grandi linee, poi entrerai un po' sul... presentiamo questo CD, come si chiama questo CD? Si chiama Spazio, Tempo e Circostanze. Bello, spazio, tempo e circostanze. Un critico ha scritto, è un gioiellino di musica intimistica e possiamo essere d'accordo. Sì, assolutamente. Ma l'idea, com'è nata Limone di questo gioiellino di musica intimistica? Sono anni che sperimenti, sono anni che scrivi, tu hai partecipato a delle band, hai suonato in delle band e poi hai deciso di fare la carriera solista. O quasi. Che io suonavo la chitarra in una band prima, dove ero anche compositore. E ho conosciuto un mondo di produttori, anche se poi non è. E poi citeremo i propri produttori. Sì, però dico, da là si collega perché, perché appunto, dopo aver conosciuto questo mondo di produttori, a un certo punto ho detto basta. Basta, ti sei io staccato. Io adesso scrivo per me. E quindi sono stato a casa, mi sono registrato questo album intero. Assolutamente a casa. E l'ho registrato e dopo averlo registrato ho detto vabbè, lo registro per me, per i miei amici, lo farò sentire a qualcuno. Poi l'abbiamo fatto sentire in giro, è piaciuto, hanno detto vabbè, continuiamo a divertirci e proviamo a promuoverlo e sta andando bene. Sta andando bene, dobbiamo sottolineare, cari ascoltatori, che Limone ha suonato tutto o quasi. Infatti ringrazio il MIDI, ringrazio chi ha inventato il MIDI. Perché col MIDI sei riuscito a fare tutto. Un po' alla Mike Oldfield, caro Gil. Sì, una volta Mike Oldfield ha cominciato la grande carriera e ha lanciato la Virgin grazie a Tubular Bells suonando tutto a casa. C'è da dire che sì, ci ho messo 6 mesi. Però alla fine io assieme a Leslie Lello, che mi ha dato una mano nella parte della sezione ritmica, che voglio ricordare appunto per questo, abbiamo fatto un lavoro, diciamo che conosciamo alla perfezione ogni singola nota di ogni strumento dell'intero album. Posso dire che un lavoro di cesello, secondo me. Posso dire, personalmente, io ed Alberto siamo stati estremamente soddisfatti da questo album. A me è piaciuto moltissimo. Vi ringrazio. Veramente molto. È una cosa nuova, secondo me. Mi associo. Ti associ, vero? Mi associo, sì. Una cosa nuova, diversa. Che bello. È una cosa molto positiva, secondo me. È proprio così. Grazie mille. Siamo molto onorati di averti qua stasera. E stasera vi faremo anche le canzoni, uno o due brani del nuovo album. Che... Bene, quello quindi, che sarà in... Grandissimo. Sarà pubblicato. Quindi... l'abbiamo preparata apposta, giusto per... Poi una cosa positiva che hai scelto l'etichetta di Padova, che ti ha dato una mano. Sì, assolutamente. Senza la Dischi Soviet Studio di Cittadella sarebbe stato ancora un CD che tenevo per i miei amici, i miei genitori e per i miei conoscenti. Invece l'etichetta, a mia vista, ha detto il progetto mi sembra interessante, ha dei valori, ha dei contenuti, proviamo a promuoverlo. Quindi senza etichetta non sarei... Questa etichetta è di Cittadella, no? Etichetta indipendente di Cittadella, Noi ci mettiamo sempre al posto di chi sta ascoltando. Etichetta, cioè, com'è? È una particolare... Diciamo che ha la forma dell'associazione culturale. Promuove la musica di valore, diciamo, del territorio. Quindi è questo il leitmotiv dell'associazione. E sta producendo, oltre a me, anche altri artisti della zona parecchio interessanti. Bene, cosa dici, Gilles? Proviamo ad aprire la finestra per sentire com'è la musica di Limone, che è una musica molto interessante. Io direi proprio di sì. Poi ho anche una curiosità, sai com'è nel testo. È sempre nel testo, chiaramente nel testo. Ti vado a spulciare un po' qualche cosa particolare da chiederti. Allora, ci ascoltiamo. Vuoi presentarla tu, Limone? Limone, sì. Presento aperitivo. Aperitivo è il singolo d'apertura di lancio del disco. Di lancio del disco è la canzone forse più allegra, sì, più scanzonata, tra virgolette. Più d'impatto, più scanzonata, tra virgolette, perché appunto non è scanzonata, ma sotto questa area leggera si nasconde una sorta di, più che critica, una fotografia dei riti sociali rispetto ai quali ho delle perplessità, diciamo. Ecco, Marco. Piccole perplessità. Piccole perplessità, sì. Ok. Oggi ho parlato per errore con il cane del mio padrone. Ha toccato un argomento interessante. Mi ha parlato dei vulcani sulla luna e mi ha detto non è più quella di prima. Oggi ho convinto un aeroplano a volare sui cieli cinesi, sotto stelle comperate a basso prezzo, sopra mari al sapore d'amianto. Quando è tornato lui mi ha raccontato tutto. Oggi si solleva le gonne per conoscersi a fondo, per conoscere il mondo da più punti di vista. Oggi è un giorno particolare, il cielo è bianco e nero, manca il senso profondo dell'essere umano. Oggi sono uscito per errore all'orario aperitivo, come sempre ho parlato di niente, tutti quanti parlavano del tempo, solo il cane parlava di arte. Oggi ho litigato per errore con me stesso davanti a un bicchiere, non aveva delle idee che condivido, mi svegliavo di notte a pensare che forse era meglio dormire. Oggi si solleva le gonne per conoscersi a fondo, per conoscere il mondo da più punti di vista. Oggi amo le circostanze, il tempo non è un segmento ma prosegue discreto per vie circolari. Segmento ma prosegue discreto per vie circolari. Blu Radio Veneto. SMS 346 23 20 033. Ecco, diciamo, Maurizio, che questa bellissima canzone ha vinto anche un premio tempo fa su MTV New Generation. È stato il video della settimana, no? È vero, con nostra grandissima soddisfazione è stato il video della settimana, la prima settimana di giugno. Ecco, perché dico questo? Perché vi consiglio anche di andarlo a vedere, perché il video legato alla canzone è veramente molto molto simpatico. Grazie. Maurizio, entra sulla canzone, poi devo chiedere anche una cosa. Sì, è un... Qua chiaramente abbiamo detto che Limone ha suonato tutti gli strumenti, c'è un po' di chitarra, c'è un po' di tastiere, c'è un bel cioè le tastiere sono sempre delicate, quasi sospese, perché è importante il testo. La parola viene in, esatto, davanti e poi dietro la musica. Sì, sì, questo è... Mettete un po' davanti il limone. Questo è il leitmotiv di tutto l'album. Mm. Il significato è che la musica deve essere un vestito, però deve esserci la persona davanti, quindi... Il vestito deve essere non troppo evidente, non troppo sgargiante, perché altrimenti poi la persona non si vede. Non si vede. E come mai hai definito il tuo disco pigro? Tu sei pigro? Sì. Perché scrivi una canzone ogni 3 anni? A dir la verità, io sono simpatico. Dobbiamo capirlo. Io ho contestato chi ha scritto che il mio album è un album pigro. Perché io volevo dire, io scrivo solo quando ho qualcosa da dire. Perché tu hai detto non scrivo più di 3 canzoni l'anno. Sì, qualcuno ti ha giudicato, sei pigro allora. Sono pigro, sì, cos'è? Una rivendicazione alla pigrizia? No, ho detto, era un'intervista in radio tra l'altro. Certo. No, a dir la verità la pigrizia con me non ha poco a che fare, anzi sono sempre molto iperattivo, sai, praticamente. Sì, iperattivo, penso sempre, poi fra lavoro, musica, insomma, sono sempre abbastanza impegnato. E appunto direi che pigro proprio è un aggettivo che lontano proprio dal mio modo d'essere, assolutamente. Perfetto, quindi Tano ma anzi, io direi... Sbagliando Tano ha etichettato così, sì, pigrizia. Direi di sì, ma anzi dico... Dimmi, anche devi dire per gli artisti, per gli artisti, ma che senso ha scrivere tanto? No, basta scrivere giusto, è giusto. Quando hai qualcosa da dire, scrivi. Semplicemente. Quindi quando puoi, vedi, questa qua è anche la nostra fortuna, noi non siamo soggetti a logiche di mercato, perché abbiamo un'etichetta indipendente, suoniamo, sì, adesso inizieremo la tournée, ma voglio dire, è sempre comunque un divertimento la musica come primo approccio. Per cui dico, sì, facciamo un album quando ci viene, non abbiamo esigenze. Hai ragione, perché quelli che sono legati a un'etichetta grossa hanno delle esigenze di mercato, sì, contrattuali, che impongono fare un disco ogni tot mesi. Esatto, e quindi già questo secondo me è deleterio per l'arte. Esatto, per l'arte sono d'accordo con te. Sconvolge, no? Se uno non ha i suoi ritmi, un musicista deve avere i suoi ritmi. Secondo me, il mercato che preme. Cosiddetto mercato, esiste un mercato ancora discografico? Secondo me... Poi parliamo anche con Paolo. No, assolutamente sì, anche perché Paolo vuol dire, grazie a lui, e anche grazie a lui che sono qua. Un mercato della musica, secondo me, per questa e anche per altre ragioni, si sta autodistruggendo. Sono d'accordo. Io non voglio essere polemico, però... Polemico nel senso positivo. Polemico nel senso positivo, se accendo la televisione, vedo che tantissima musica pop è priva di contenuti, o se non priva di contenuti si parla d'amore, ma poi cos'altro? Ho anche scritto un pezzo che vi farò sentire dopo sul punto. Allora dico, perché? Ci sono talmente tante cose da dire, tante cose, soprattutto qua in Italia, nel contingente, nella situazione che stiamo vivendo, per cui dico, ma perché? Perché continuare a dire tutte cose uguali? Diciamo che Limone in realtà un po' polemico lo è. È sempre stato polemico. Leggermente, un filo. Però concordo con questa cosa, nel senso che scrivere una canzone per non dire niente non... Meglio non scriverla. Meglio non scriverla. Mm. Quindi il fatto di scrivere 3 canzoni l'anno, come è stato detto... È il mio punto a favore. È la prima volta che mi... È una soddisfazione, nel senso che scrivere 3 canzoni l'anno vuol dire averci pensato e averle scritte perché c'era qualcosa da dire. Se no si perde tempo. Si perde solo tempo. Ma abbiamo parlato prima del discorso dell'imposizione. Qualcuno la scrive perché dobbiamo fare 12 pezzi o 10 pezzi nel disco. Sì, ma non solo, ma pensa anche all'immagine di copertina di tantissime band, anche locali, dico. Mm. C'è la loro foto, la loro immagine che deve essere anteposta a tutto. Certo. E dico, mi sembra che appunto sia modo di svuotare di contenuti la musica, anche questo dare la priorità all'immagine. L'immagine, no? Anche quella televisiva soprattutto. Eh sì, ma in modo... E infatti cosa sta succedendo? Nessuno più si affeziona agli artisti, nessuno più compra i dischi. È vero. Quindi abbiamo poco da raccontarcela. O ci mettiamo qualcosa di contenuto oppure la gente non si affeziona. Oppure compra i dischi degli artisti. Tempo. Esatto, infatti c'è un ritorno al passato. Esattamente. Adesso c'era il fotografo ufficiale di Lucio Battisti, mi sembrava fosse il fratello di Montalbetti. Sì, esatto. Anche lui diceva che dalla copertina si capisce anche il contenuto del disco. Sì. Quando faceva le fotografie lui a Lucio, Voleva dire una certa cosa. Era così. Infatti, se noi guardiamo la copertina di Limone, si associa a quel tipo di musica che fai, effettivamente. Sì. Spero sia quello che intendo. Citiamo chi ti ha scritto la copertina. T'ha fatto la copertina? La copertina me l'ha fatta Silvia Brusolin, che è anche la mia compagna. Compagna, perfetto. Sì, che ha questa passione per la... per l'arte, per il disegno. Ma anche lei disegna quando ha voglia. Ho visto il disegnetto, ho detto ah che bello, ma potrebbe essere la copertina dell'album, anche perché l'idea era quella di creare un Limone, che non ero io, ma questo personaggio che vive di quasi di vita propria e che ha le sue cose da dire, è un personaggio un po' surreale che vive fuori dallo spazio, fuori dal tempo, fuori dalle circostanze. Sei tu. Un piccolo principe qualcuno ti ha definito nella copertina. Sì, è vero, qualcuno mi ha definito un piccolo principe, poi è anche vero che il piccolo principe viene tirato fuori... A dismisura, quindi dico vabbè. Va bene. Ci sono anch'io. Suoniamo qualcosa. No, io volevo chiedere per chiudere questa canzone una piccola curiosità. Proprio per su un testo c'è sempre qualcosa da dire. L'importante è questo, no? Sì, scrivi che interessante: il cielo è bianco e nero, ma anche il senso dell'essere umano. Come ti è venuta questa? Sì, era la nota più polemica, più polemica della canzone. Paolo, devi aiutarmi. No, l'hai scritto tu il testo. Sì, era un riferimento a... Ammesso che ne vuoi parlare, logicamente. No, certo, ne parlo, ci mancherebbe. Era un riferimento al momento degli aperitivi, dove banalmente dicevo il cielo è bianco e nero, quindi non ha colore, e manca il senso profondo dell'essere umano. Però alla fine se notate la finezza, direi, linguistica, alla fine dico amo il senso profondo dell'essere umano. Quindi c'è l'uno e anche l'altro, quindi... Ecco, sono stato polemico, è un po' polemico. No, tutto sommato la coperta bene. Dai. È stato bravo. Cosa suoniamo, Limone, adesso? Per cominciare questa cavalcata acustica, adesso fino alle 10:30. Farei Uomo con la chitarra. Uomo con la chitarra. Vi do uno stacchetto e poi partiamo, ragazzi. Benissimo. Senza radici cade come un razzo su un palazzo. Radio Veneto. SMS 346 2320 033. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Vi ricordo che chi volesse anche scriverci può farlo in Facebook sulla pagina Blu Radio Veneto Rockwell e scrivere il vostro post che noi lo leggeremo volentieri in diretta a Limone. Chi volesse anche ascoltare la radio negli 88 e 700 MHz può eventualmente anche farlo attraverso lo streaming nel sito www.bluradioveneto.it. Allora, abbiamo... Paolo ha utilizzato l'Octopod, che è uno strumento elettronico, un giochetto elettronico. Sì, un giochetto elettronico molto divertente. Molto divertente, un tasto, la batteria praticamente. Sì, dà la batteria elettronica. Di registrare delle batterie elettroniche per farle partire con dei loop, e questo ci dà la possibilità nel live poi di poter suonare altri strumenti, per esempio il basso in questo, ecco, caso. In questo caso suonavi il basso mentre Limone suonava le tastiere, e come sempre, come in tutto il disco, il testo ironico sta davanti e dietro questo sottile cesello elettronico, sottile, delicato ma interessantissimo. Grazie mille. Giochi sempre, giochi per modo di dire, crei questo alone particolare volutamente così, perché l'idea del disco è così, è il vestito, è sì. Il vestito, come abbiamo detto, il testo ironico, pungente, che ti taglia in due, e questa melodia quasi una ninna nanna, una cosa, un carillon, possiamo dire. Perfetto, questo. Sì, mi piace molto come definizione. Ma è bella, è accattivante, hai capito, caro Limone, è accattivante in qualsiasi pezzo. Grazie. Tu fai, è una mia impressione, di Alberto Pisco, che salutiamo, che è il nostro direttore artistico, che stasera ti ha voluto qua e ha fatto benissimo, e Gile, abbiamo avuto questa impressione che le melodie accattivanti non nascondono il testo pungente e importante, lo favoriscono, possiamo dire. Beh, assolutamente, sì, sono... Beh, anche perché la strategia di Limone, ovviamente non pensata, ma una cosa che viene spontanea. Che difficoltà c'è a produrre dal vivo, stasera siamo qua in uno studio radiofonico, dal vivo un progetto simile? Guarda Maurizio, ti devo invitare a un nostro live. Anche perché, come spesso capita nella musica indipendente, i live sono gratuiti, quindi... esattamente, anzi quindi... paghi te qualche volta. Qualche volta qualche volta capita, tutta Blu Radio Veneto arriva. Ecco, tutta... No, in realtà noi usciamo, siamo io, Paolo, più un nostro amico Andrea Gaspari, che è un attore lettore. Noi portiamo i lampadari della nostra sala prove, creiamo un piccolo salottino, mettiamo il lettore davanti a tutti che legge il giornale sotto un abat-jour, e l'idea è quella di invitare tutti nel nostro piccolo salottino ad ascoltarci. Bello, per sé. Quindi si riprende l'idea della sala prove, per dire. Della sala prove, del salotto, proprio del sottofondo che favorisce la comunicazione. Una volta si usava il garage per fare i pezzi. Ma poi sono cambiati i tempi. Sono cambiati i tempi. Assolutamente. Il garage costa ormai, Maurizio. Sì, ma il garage voleva dire anche musica un po' più violenta. Cosa dici? Sì, è vero, è vero, è vero. Le chitarre... proprio esasperate, batterie, eccetera, ma proprio... Anche se veniamo tutti poi da quella scuola, da grande... Da questa scuola. Tu, Paolo, da che scuola vieni? Oltre che suonare con tuo fratello un po' di anni fa. Esatto, io vengo da quella scuola lì degli anni 90 in cui si suonava rock, si faceva ad alto volume, altrimenti non aveva senso. Credo che i tempi siano un po' cambiati, o forse siamo cambiati un po' noi, abbiamo delle esigenze diverse, adesso abbiamo... magari l'esigenza di pensare un po' di più al testo piuttosto che alla musica, mentre magari 10-15 anni fa, parlo per me almeno, era più una questione di volume, di suonare... di pressione sonora, bene, sì. Sì, di alzare il volume finché ce n'era. E questa scuola elettronica, caro Limone, da dove viene, da dove parti da questa scuola elettronica? Beh, diciamo che io come riferimenti artistici ho i cantautori italiani, e là di elettronico c'è poco. Mi piaceva l'idea di fare un album in casa da solo, e quindi ho usato molto i suggerimenti del mio amico Leslie Lello, che è il produttore artistico della sezione ritmica, per cui i suoni sono una ricerca che ho demandato a lui, praticamente a lui, sì, assolutamente. Tu hai inserito il testo, chiaramente aveva fatto un connubio, sì, cioè, testo, la musica è tua, melodia, chiaramente testo, però melodia, sì, parti anche, però, però lui ha cercato di arrangiare, di portare a un certo compimento il pezzo, praticamente, esatto, con il pensiero che less, cioè less is more, cioè, meno hai, togliamo, quindi quello è il pensiero, questa è l'idea. Benissimo, sono le 21:27, abbiamo qua un'oretta ancora abbondante per parlare, per discutere, per sentire. Io proporrei un altro pezzo, così poi ne parliamo ancora meglio. Cosa abbiamo scelto in scaletta, caro Gile? Abbiamo scelto lettera, anzi, assomigliavi a Marte. Assomigliavi a Marte. Adesso me lo spieghi un momento, assomigliavi a Marte. O lo sentiamo e lo spieghi dopo? Lo sentiamo. Lo sentiamo, se lo spieghi dopo, allora, ok. Credimi, gli angeli mangiavano le fragole e poi si mettevano a testa in giù, appesi al mondo. E così, a piedi ora scendevano da Venere, quando un aeroplano nero si scontrò dritto al cuore. La gente aveva smesso anche di credere che gli alieni esistono e che Dio è un'invenzione. E sei tu meravigliosa, la più bella creatura, un angelo. Credimi, è così, credimi. E così, da Venere scendeva una musica, una vecchia storia di un uomo solo, forse l'ultimo. Passava le giornate con le fragole e poi si metteva anche a piangere, pensando al mondo. E sei tu meravigliosa, la più bella creatura, un angelo caduto in marzo. E assomigliavi a Marte col tuo vestito rosso. E è così, credimi, così credimi. Blu Radio Veneto, SMS 346 23 20 033. Blu Time. Blu Time. Blu Time. Blu Time. Ecco, sì, allora adesso riepiloghiamo il titolo del pezzo. Il pezzo che abbiamo appena sentito si intitolava Assomigliavi a Marte. Assomigliavi a Marte. Che cosa parla di Assomigliavi a Marte? Diciamo, è la storia di un personaggio surreale che in questo spazio senza tempo produce delle riflessioni, però poi torna... Riflessioni terrene però. Riflessioni terrene. Esattamente, sì, sì, sì. Poi torna... Poi torna al presente pensando banalmente al vestito rosso. Esattamente. E musicalmente è un pezzo che tu mi dicevi a microfono spento, è stato scritto un po' di tempo fa, non è un pezzo, non sono nuovi o vecchi, è un po' più antico, possiamo dire tra virgolette, un po' più vecchio. Sì, diciamo che se... che nell'evoluzione che spero sia un'evoluzione esattamente dei tuoi pezzi questo è all'inizio, questo è all'inizio e si sente perché c'è molta musica e meno parlato anche, per esempio, sì, mentre i pezzi dopo che c'è più parlato, c'è più musica, parlato, e soprattutto c'è più ironia, esatto. Più ironia. È meno ironico rispetto agli altri, esatto. Però si doveva cominciare sì, infatti, quindi l'ho messo nel disco proprio perché perché lo ami in ogni caso. Anzi, ancora adesso quando mi verrai a vedere in uno di quei live costosissimi parliamo di live costosissimi esattamente, parliamo della condizione dell'artista. Si sta mettendo su la camicia, sì. Posto la camicia a limone perché sta sudando. No, questa qua, anzi, ti ringrazio Maurizio per lo spunto, perché vedo che mi rivolgo ai miei colleghi artisti, mi chiedo ma perché fate sempre perché le tribute band? Perché fate cover? Non è obbligatorio, no, non è obbligatorio rispondere, no? Fare musica propria, soprattutto, no, se non sei capace di farlo. Però perché fare musica da altri? Dov'è la libera espressione di sé? Qua mi fermo, Paolo, cosa dici? Fermati, perché no, fermo, sennò diventi polemico. No, la polemica semmai va un po' rivolta non tanto ai locali, ma un po' al modo di fare che è un po' cambiato rispetto agli anni 90, come parlavamo prima. Quindi dopo 15 anni, dopo 20 anni ormai, ci troviamo in tanti locali a dover combattere per non fare due ore di cover. Noi arriviamo, proponiamo la nostra musica, scritta dai cantautori più o meno validi che siano, ma non ci sono locali che facciano suonare in questo senso. Ci sono, ma sono molto pochi. Per lo più sono ristrette circoli arci, esatto, o pochi locali dedicati alla musica. Purtroppo nessuno vuole far suonare gente che fa musica propria, inedita. E questo è un problema. E come dicevamo a microfoni spenti, il fatto che un gruppo cover possa fare 10.000 persone e un gruppo che fa musica propria ne faccia 10 è un po' triste. Solo lì. Sì, è vero, un po' triste, ma qualcuno ha anche detto perché la gente non vuole più pensare, mischia tutto quanto, è un frullatore e basta. Beh, non so se sia vero questo. No, forse è solo più, diciamo, un'ottica commerciale dei locali che vedono nel gruppo cover che fa due ore di musica e fa due ore di musica che tutti conoscono un'opportunità in più per avere gente, consumazione, eccetera, eccetera. Sì, sì, è troppo brutto da dire, però così la realtà è questa. Così, lo sono tutti. C'è anche una logica. Voglio dire, magari in Inghilterra, per esempio, la cultura è un po' diversa. Beh, in Germania, diceva, sì, un ragazzo che è venuto qua a suonare con una band, era un ragazzo del Dolo, quindi abbastanza vicino a qua, è andato con una band a suonare in Germania. In Germania c'era un locale dove avevano suonato loro che non volevano assolutamente le cover band. Vedi, questo che non volevano. Beh, una cosa. Ma no, qua, al Folk Studio a Roma, famosissimo Folk Studio, era vietato suonare le canzoni degli altri. Suonavi le tue canzoni. Ma si parla degli anni 60, 70. Beh, ma c'è da dire che ce ne vorrebbe qualcuno anche oggi. Beh, ce ne sono, ma circoli arci. Ce ne sono ancora qualcosa che risponde a questa esigenza, ma ce ne sono pochi. È cambiato un po' di tutto. Ecco, cerchiamo di ricambiare. E ricambiare nel senso positivo, di ritornare indietro positivamente. Sì. Ecco, la cosa interessante è che quando suoniamo nei locali, dove è possibile adatti, farle, tra virgolette, certo, vediamo che la gente che c'è è selezionata e risponde sempre positivamente. Partecipa anche molto spesso in silenzio, quindi sono cose anche molto, molto carine. Beh, certo, è vero. Uno che ascolta in silenzio vuol dire che prende ad ogni tratto, ad ogni momento del pezzo che tu fai sentire. Questa sì, è una cosa positivissima. La soddisfazione è vedere qualche persona interessata. Non ne servono 10.000, ma se c'è anche se ci sono anche solo una quindicina di persone, ma sono veramente interessate a quello che stai facendo. Certo, dopo c'è gente che alla fine del concerto ti chiede com'è l'album, eccetera. È una cosa positiva, assolutamente. Quando infatti, alla fine del concerto vengono a chiederti il disco, vuol dire che hai lasciato un segno. Chiaro. Che fossero lì per caso o fossero venuti apposta, non importa, però hai lasciato qualcosa. Benissimo, suoniamo un altro pezzo, Limone. Che cosa? Sì, dai, tiriamo su il contenuto ironico della serata. Direi di proporre. Adesso ha preso la chitarra Limone. Una canzone dal titolo è Capotasto. Ah, Capotasto. Sono tutte inedite in ogni caso. Tutte inedite, sì. Per esempio il capotasto in questo pezzo no, non serve a niente. Nella vita certo preferisco le domande alle risposte. L'interlocutore invece apprezza soprattutto le certezze. E comunque il capotasto in questo pezzo no, non serve a niente. E se la vita è un'esperienza in quattro quarti, al lavoro io darei una semicroma, all'amore io darei una pausa un quarto, e per il resto chiederei all'Europa di far quadrare i conti. E sulla vita avrei altre due domande, ma il DJ suono mette su dei dischi. E perché nessun politico ha mai detto d'accorciare il mese e farlo a 20 giorni per arrivar meglio alla fine? E comunque il passaggio ritornello strofa è troppo brusco. Per il sindacato quando c'è un problema si sale sul tetto, e dal tetto poi si scende per aprire un ulteriore tavolo. Quindi a questo punto stabilisco anch'io la mia unità di crisi. E se la vita è un'esperienza in quattro quarti, al lavoro io darei una semicroma, all'amore io darei una pausa un quarto, e per il resto chiederei all'Europa di far quadrare i conti. E sulla vita avrei altre due domande, ma il DJ suono mette su dei dischi. E perché nessun politico ha mai detto d'accorciare il mese e farlo a 20 giorni per arrivar meglio alla fine? E pane al pane e vino al vino e acqua a fede, che altrimenti poi dimentica le note, che altrimenti poi confonde le canzoni. E colto in fallo furbescamente afferma che sono tutti uguali. Blu Radio Veneto è come non l'hai mai sentito. Blu Radio Veneto, SMS 346 2320 033. Blu Time. Blu Time. Blu Time. Blu Time. 21 e 41 minuti qui a Blu Radio Veneto, ragazzi, in compagnia di Gilles la regia, Maurizio la conduzione di questo programma, per presentare il CD di Limone, Spazio, Tempo e Circostanze. Possiamo dire che Capotasto, musicalmente un pezzo molto interessante, è fatto da due canzoni, una veloce e una lenta. Esatto. Bella, e poi il testo è sempre ironico, il capotasto. Cosa vuol dire il capotasto, caro Limone? Capotasto è un aggeggio che si mette sulla chitarra. Il capotasto è un aggeggio appunto che si mette sulla chitarra, che in questo pezzo non serve a niente. Ecco, perfetto. Tutto lì, punto. Ed è da questo il senso, no? Quindi una canzone da vedere. Il capotasto è solo un modo per parlare, per ampliare un discorso e andare a menare piccoli fendenti, piccoli, ma che con ironia speriamo poi servono a presentare il concetto. Certamente. Okay. Sì. Poi mi interessava molto il gioco che ha fatto Paolo con questo aggeggio, la batteria elettronica. Possiamo dire, possiamo chiamarla batteria elettronica. È più un giocattolo. Un giocattolo. Sì. E poi hai diviso il pezzo in due parti. Sì, assolutamente. Praticamente il limone sembrava un valzer. Continua a scrivere due o tre pezzi e poi li mette assieme e diventano un pezzo. No. Uno sembrava un valzer. Un ritmo un po' così andante e poi via. Ho fatto due pezzi anche. Però nella canzone lo dico, sì. Quindi per esempio il passaggio il ritornello strofa è troppo brusco, cioè sono conscio del fatto che delle volte, quindi hai analizzato anche il concetto esatto. Del musicista proprio qui interno al musicista, assolutamente, non soltanto nel testo. Capotasto come spunto di autocritica, esattamente. Quanto che è data questo pezzo, quanto tempo fa? Brano qua l'ho scritto quando Monti era il governo. Quindi sì. Circa un anno fa. Dove c'era l'Europa che esattamente. Allora ho detto. L'ho già fatto. L'ho datato per modo di dire. Dobbiamo sempre fare il conto con l'Europa noi. Era nato così o poi l'hai sviluppato in una certa maniera? Era nato così e così è nato? Sì, sì, è nato così, sì. Non c'è stata delle variazioni grazie alla... Adesso stasera Paolo c'è qua, non l'ha variato leggermente. Beh, Paolo dà sempre dei contributi fondamentali ai pezzi. Ecco. Però sì, diciamo che era... Sì, l'idea della canzone era quella. Poi appunto in sala prova cerchiamo di giocarci un po' su. L'idea è sempre quella di stare un po' sull'ironico e di scherzarci un po' sopra. Un'ironia sugli avvenimenti delle cose che capitano, sì. Sulla quotidianità. E quel famoso signore che sta nel palco con te legge il giornale, non l'hai detto? Hai detto di uno che legge, però non hai detto che cosa legge, il giornale. Lui in genere legge Sole 24 Ore. Perfetto, proprio una persona che gli piace tanto. Sì, molto economia. Sì, anche perché richiamo un po' la mia professione, perché appunto... Io di lavoro mi occupo di economia. Di economia, in genere. In genere. Quindi appunto era anche un modo per richiamare la tua attività. La quotidianità, no? E sì, lui è il lettore che, diciamo, mette sulle basi. Quindi c'è il doppio significato del lettore. Qua non voglio fare la battuta perché sennò sembra che non faccia le battute ormai che non fa ridere. È il lettore che ha il lettore MP3 ormai che legge anche il giornale. Quindi. Ho capito. Mister X, insomma. Sì, esatto, è un gioco di parole. Un gioco di parole. È vestito... Comunque è il padrone di casa lui. Quindi... È vestito normalmente oppure... Diciamo che ho scelto molto, questo mio amico. Molto bene. Molto appunto, bene. Si veste sempre molto bene da uno che legge il Sole 24 Ore. Esatto, assolutamente. Ma in genere proprio è la persona più davanti... alla platea, cioè praticamente com'è fatto il set dove tu sei lettore davanti a tutti, poi ci sei te, poi io e Paolo con un sacco di aggeggi dietro. Sì, beh, sono questi praticamente tastiera, la macchina che fa un po' di tutto è esatto. Bello, interessante. Quindi un concerto che si svolge in un'oretta e mezza, due ore, se possibile, un'oretta e mezza, beh, ma anche 45 minuti. Ah, 45 minuti, dipende dai locali. Beh, ma guarda, ti dico, secondo me, ho visto che la formula dei locali predisposti alla musica live non dura più 45 minuti. No, ti chiedono di suonare 40-45 minuti. Come nell'EP di una volta. Perché sì, perché la gente che viene interessata ad ascoltare più di 45 minuti non sta attenta. E chi fa due ore fa cover. È vero. È come la gente che va a teatro. La gente che va a teatro sono abituati a stare di un'ora. Esatto. Perché altrimenti, mediamente, la media si sta abbassando, certo. La soglia di attenzione dopo un po' si riduce, e per la nostra musica bisogna sempre stare attenti assolutamente. 21:46. Bene, caro Gil, cosa dici? Adesso, se vogliamo ascoltare il brano dal CD, ci sarebbe Lettera al produttore. Questo è un brano molto importante. t'hanno, ha molto amato tutti quando hai fatto un pezzo simile, anche a chi è un produttore praticamente. Sì, esatto. La, beh, a dire la verità, io quel, questo brano l'ho fatto sentire al produttore. Ecco. No, e da loro, non è una barzelletta, però mi ha detto non farti più vedere. Per però è stato là che mi ha detto sì. È stato un po' un lancio del disco questo qua, almeno. Sì, sì, no, ha perché... avuto un certo riscontro, tutti ne hanno parlato. Ma cari ascoltatori, io ho letto le recensioni di questo disco, sono tutte ottimali, veramente positive, caro Limone. Vedi, questo... questa è una cosa... Lentamente. Ma lentamente, ma progressivamente le cose stanno andando bene. Sì, sì, vedi, io quando scrivo cerco sempre di pensare che la canzone deve essere l'ultima del lato B. Questo secondo me è un trucco, così poi uno può scrivere quello che vuole. Questo è vero. E Lettera a un produttore è nata così. Ecco, la sentiamo e poi ne parliamo ancora perché ci sono delle cose da dire. Sandro, ascolta queste note, le ho scritte sottovoce, le ho scritte per provare a dire che sono un artista, un equilibrista, un professionista, uno di quelli che la sera torna presto e parla con lo spazio davanti a una minestra e crede che qui l'arte più della vita è ingiusta, con quattro note in tasca e niente nella testa, se vieni qui in Italia puoi fare la tendenza. E i dischi sono vuoti, vuoti di contenuti, e intanto ti lamenti perché non vendi niente. Allora io ti dico che per te ho scritto questa, e forse avrei... Sandro, avrei voluto fare in 15 anni almeno un disco. Sandro, avrei voluto avere dalle mie note almeno un affitto. Sandro, avrei voluto avere un po' più tempo per me stesso. Sandro, avrei voluto avere migliori rapporti con il fisco. Ma per te era come dire un camionista nello spazio. Ma per te era come dire un astronauta nel deserto. Sandro, avrei voluto fare in 15 anni almeno un disco. Sandro, avrei voluto avere dalle mie note almeno un affitto. Sandro, avrei. Produttori, siete come i cinesi che vogliono riempire il mondo di immondizia, di dischi fatti in serie, di gruppi tutti uguali, di musicisti in posa che pensano alle vesti, e conseguentemente non c'è più da stupirsi dei principi a Sanremo, dei troni e dei tronisti. Allora io ti dico che per me vorrei altro, e infatti avrei. Sandro, avrei voluto fare in 15 anni almeno un disco. Sandro, avrei voluto avere dalle mie note almeno un affitto. Sandro, avrei voluto avere un po' più tempo per me stesso. Sandro, avrei voluto avere migliori rapporti con il fisco. Ma per te era come dire un camionista nello spazio. Ma per te era come dire un astronauta nel deserto. Sandro, avrei voluto fare in 15 anni almeno un disco. Sandro, avrei voluto avere dalle mie note almeno un affitto. Sandro, avrei. Radio Veneto. SMS 346 2320 033. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Dico una cosa sbagliata, Limone, se ci trovo un po' di rap all'interno di questo brano. Sai che io voglio imitare il trend del mercato, quindi ho visto che ultimamente tira. Il rap tira, quindi due anni fa ho pensato di anticipare le esigenze del mercato e ho scritto questo pezzo apposta. Anche perché c'è chi sostiene che nel rap ormai sia... ho letto anch'io, sì, sul Corriere ieri. No, questo ce l'ha detto Ruggeri, che il rap rimane un genere di cui si riesce a dire ancora qualche cosa. Devo dire che anche se è lontano dalle mie corde musicali, però vedo che i contenuti ultimamente sono su quel versante della musica più che in altri. Sì, a proposito di rapper, visto che così parlando dal punto di vista del business, nei primi 10 nelle classifiche italiane ci sono 5 rapper. Ecco. Quindi oltre a Fabi Fibra, storico rap, c'è qualche altro. E il rapper è una nuova, non so se sia una nuova moda, è un ritorno, perché una volta c'era rapper, era un po' di elite, di nicchia, però stavolta è un po' se posso diciamo, perché l'industria discografica ha cercato di mangiare, adesso sta mangiando su quel settore là. Ecco, funziona anche così, sì. Diciamo che funziona forse perché è la cosa più vera che esce. È la cosa più vera. Sa rinnovarsi, sì. Il rap sa sempre rinnovarsi, sì. Un po'. Non... Sì, che sì, piaccia o no, ma funziona, dicono certo. Cose vere. Sì, bene è anche difficile da cantare, da suonare contemporaneamente. Mi diceva un rapper che è venuto qua, deve fare una respirazione particolare per cantare in rap. Quindi c'è anche una tecnica. C'è una tecnica, decisamente, al di là degli scherzi, c'è proprio una tecnica. A proposito di tecnica, Rockerilla ti ha scritto una cosa meravigliosa. Rockerilla è un giornale musicale alternativo, tra virgolette. Un disco magico e onirico e a tratti naif, fatto di piccole storie, ed è vero, in equilibrio tra il miglior cantautorato italiano ed una elettronica delicata e raffinata. Delicata e raffinata. Ed è siamo assolutamente... è vero, è bello, è significativo. No, ma quello è perché li ho pagati. Ah, li hai pagati. Li hai pagati. Ah, ma l'ha scritto bene, ha scritto anche il Buscadero, che non è sulle corde del Buscadero. Livio Brunetti, sul Buscadero, esatto. Ha scritto delle cose molto belle nei tuoi confronti. Sì. Infatti siamo rimasti molto... Beh, ma iniziamo ad avere le nostre piccole soddisfazioni. Anche l'invito qua fa parte di... Io ti ringrazio. E riprendiamo alla lettera al produttore. Cosa volevi dire? Volevi dare Sanremo anche te oppure... Allora, noi siamo... Ma il produttore identifica la casa discografica o identifica il potere discografico? Diciamo che il produttore, secondo me, identifica due elementi. Diciamo chi ti vuole produrre artisticamente. E chi ti vuole... Esatto, ma soprattutto, ed è una cosa che non si nota subito, però io critico anche l'atteggiamento dei soggetti che sono vittime dei produttori. Cioè? Perché... Per esempio, se adesso arrivasse da me uno e mi dicesse, ma non perché sono io, ma perché... Daniele Anoa, per esempio, che ha prodotto Bono, cosa faresti? Ecco, d'accordo, gli dico, questo è l'album. O Brian Eno. No, ma al di là di questo... delle battute. Però dico, il farsi traviare, il farsi distruggere anche artisticamente da un produttore... Per cosa poi? Per una visibilità più alta, immediata? Non è mica detto per... Sì, al di là del fatto che non è detto, appunto. Ma poi anche il mirare al successo è un atteggiamento, un approccio che è molto distante dal nostro modo di essere. Certo, quindi... sia un po' una protesta, perché è appunto polemico, contro non tanto il produttore, ma quei piccoli passi obbligatori che bisogna fare per fare un disco, contro quelle piccole cose che ormai quei sono passaggi, diventate standard, quei passaggi standard. Sì, che sono sempre molto molto forzate. Non è una polemica, è un pezzo comunque sempre su, diciamo, ironico, che scorre, che è puntato proprio su quelle, quindi è giusto portare avanti il discorso di autoprodursi, di autogestire le cose. Per me sì, però se l'autogestione ha delle cose anche negative. Sì, dopo si rischia di essere dimenticati, di essere lasciati da parte. Ma quello quello è sempre. Quello non è negativo. Quello no, è positivo forse. Quello fa parte del gioco. Ci sono anche grandissime persone che non sono conosciute. Certo, certo. Magari sì, adesso non voglio dire, però no, meglio non fare no. Non sempre c'è un legame bionivoco tra la fama e il valore di una cosa. Assolutamente no. Anzi, direi che spesso cioè, c'è un legame inverso. Ma è giusto, ma questa moda è una bella cosa di autoprodursi, è una cosa positiva, una cosa ma che poi con le tecnologie che abbiamo, esattamente, non serve il produttore. Con un computer a casa si fa tutto. L'85% dell'album è vero, assolutamente. Quindi casa discografica viene soppassata alla grande. Ma infatti anche la casa discografica si sta rendendo conto che i vecchi sistemi di produzione tipo industria, cioè non funzionano più. Continuano ad abbassare il livello del disco d'oro e fra un po' arriviamo a 100 copie. È verissimo. E allora abbiamo vinto anche noi il disco d'oro. Verissimo. Ok, cosa facciamo? Facciamo un altro pezzo live, dici, dai. Dimmi. Sì, dai, facciamo... Torno alle tastiere, facciamo... Qui lo dito e qui lo lego. Perfetto. Vi faccio andare subito, ragazzi. Se siete pronti. Siamo prontissimi. Mi sento una parete bianca nascosta dietro un quadro di un artista di strada che un giorno si sparò e quindi famoso. E per te che ami l'Inghilterra, per il tuo compleanno ti ho regalato un bagno completo di bidet che a Londra ancora non c'è. E mi sento un po' un cerchio nel grano, forse un portefatto ma pieno d'entusiasmo. Hai visto intorno a me che aspettativa c'è. Ma sinceramente l'emozione la più intensa l'ho provata quella volta che ho guardato quel servizio a studio aperto del gattino molto stanco, non scendeva più dal ramo. E anche quella volta in assemblea del condominio che ho pregato che approvassero il bilancio corredato dalla nota in cui dicevo che t'amavo con effetto retroattivo. Ho nostalgia di te. Al fulmine e che primavera è senza neve, senza te. Ma ti sorridono gli occhi se pensi a me. Sento un mago illusionista che un giorno aprissi pari e fece sparire tutti, nessuno l'applaudì, sembrasse ancora lì. E mi sento un'aquila reale che poi perse la vista ed inoltre ho richiesta di inabilità alla sezione 3. E mi sento un po' come Picasso che non capisce un cubo, dopo il periodo rosa scompose la realtà diversa da com'è. Ma sinceramente l'emozione la più intensa l'ho provata quella volta che ho guardato quel servizio a studio aperto del gattino molto stanco, non scendeva più dal ramo. E anche quella volta in assemblea del condominio che ho pregato che approvassero il bilancio corredato dalla nota in cui dicevo che t'amavo con effetto retroattivo. Ho nostalgia di te. Al fulmine che primavera senza neve, senza te. Ma ti sorridono gli occhi, pensi a me. SMS 346 2320 033. Blue Time. Ancora una trentina di minuti in compagnia di Limone e Paolo per presentare questo CD Spazio, Tempo e Circostanze a Blu Radio Veneto. Caro Gil, sta facendo Limone tutti i pezzi inediti che non sono presenti nel disco, hai capito? Quindi ci ha preso anche in contropiede. Esattamente, tutti i pezzi inediti. Una bella cosa di questo testo, tu citi gli assemblei di condominio, però arrivi sempre all'amore. È un bisogno di te, non sì. Ironico. È una canzone d'amore, tra virgolette, con un sacco di riferimenti molto quotidiani, come l'assemblea di condominio, che si sa che l'assemblea di condominio è una cosa che è molto pesante in ogni caso. Sì, è vero, è vero. Arrivo all'amore, ma solo come elemento distensivo rispetto a tutte le tensioni che l'assemblea o altre cose ti possono dare. Anche il bidet in Inghilterra, che non c'è il bidet, anche quello può essere appunto una... sì. Esattamente. Oppure però vedi, dico per esempio ho nostalgia di te, sì. Come Tesla, il fulmine. Tesla, come liberazione, insomma. Sì, come una cosa. Però dico anche che primavera è senza neve, quindi rispetto a questo, quindi è un amore per senza neve, senza te, sì, metto sempre degli elementi che confondono il processo lineare, anche l'ascoltatore confonde, anche l'ascoltatore sono un po' dei gregoriano in questo caso, ecco, sì, mi piace come definizione. Lui non ha mai avuto giustamente le rime baciate, assolutamente contro le rime baciate. Tutti i momenti particolari, tutti immagini come il pittore impressionista, esattamente, un po' dette Gregori, assolutamente di Laniano, dice musicalmente, ma come testi un po' meno di Laniano, secondo me. È un grande De Gregori, sempre stato. Quindi a proposito di De Gregori, siamo arrivati alla famosa domandina. La domandina, vero Gil? Ti ricordi? Sono le 23, 22, certo, adesso. La famosa domandina. Sì, ma è una cosa semplice, però la conosce già. Tu non la conosci, però è molto semplice. Tre, sempre tre. Facciamo tre, dai. Sempre perché abbiamo pietà di Limone. Allora, caro Limone, vai su quest'isola a concentrarti per creare il prossimo CD. Nel frattempo ti porti via con te tre CD da poter ascoltare. Che tu ami particolarmente, che ti possono fare riferimento, i tuoi punti di contatto. Mi porterei via la discografia di Rino Gaetano, posso? In MP3 così ci sì, sta, ma ci ottimo, sta no, quindi Rino Perfetto. Gaetano è un tuo punto di riferimento. Sì, anche se nessun critico l'ha citato. Perché probabilmente poi i critici appena sentono uno gridare dicono quello assomiglia a Rino Gaetano. Ma hanno citato Tricarico, che fosse un fratello minore di Rino Gaetano. Sì, ma siamo un po' tutti figli... Esattamente, o figli minori. Sì, figli minori di Rino Gaetano. Sì, cioè, la parte dell'ironia l'ho scoperta con Rino Gaetano. Ecco, poi mi porterei un CD di uno che esce da X Factor per capire come non... qual è la direzione in cui non devo andare. E da ultimo mi porterei l'ultimo album di Di Martino, un cantautore siciliano, l'album uscito nel 2012 e secondo me è il più bell'album del 2012. Un ragazzo che ha la mia età, ma ha scritto un bellissimo album. Adesso non vorrei sponsorizzare la sua cosa, ma dico no, pesco, è bello, mi piace, sì, è molto bello. Mi piace pescare molto dal passato, ma anche riconosco anche il valore di ce ne sono molti. Ci sono molti ragazzi, soprattutto quelli che fanno 50-60 persone nei locali. No? Quelli sono veramente, trovo molto spesso gente di valore estremo. A proposito di questo, tempo fa raccontava Dente, Dente lo conosci, sì, ho scritto anche la canzone per Dente. Ecco, appunto. Raccontava Dente che lui si è preso 6 mesi di aspettativa dal lavoro e è andato in giro per tutta l'Italia per suonare spesso e volentieri davanti a 10 persone per farsi conoscere. Sì. Un panino e una Coca-Cola era il compenso. Guarda, ma qualche volta anche non c'era, chiaramente. Maurizio, da settembre partiamo e facciamo così. Bisogna far così. Bisogna avere il coraggio di far così, caro Paolo. Cos'è? Assolutamente. Con Limone bisogna far così. Infatti, volevo dirti, al di là del... se vedi l'Octopad... di questa macchinetta... questo risponde anche ad un'esigenza di praticità. Certo. E di economicità, perché in due riusciamo a girare l'Italia su una macchina. In due, con una macchina andiamo dove. No, è molto semplice, però risolve tutti i vostri problemi. I nostri vizi. E anche in modo personale, in molti locali, con due persone solo, non ci sono problemi. Assolutamente. Dimmi, Paolo, i tuoi... tu li hai già detti all'epoca. Manca ancora uno, però. Ah, ne manca ancora uno. No, sì. Non dici tre. X Factor, ma non hai detto chi. Ma non ci diamo X Factor. Però posso dire ma ti ricordi di chi ha vinto X Factor? Io no. Pietro Taricone. No, poveretto, se n'è andato un po' di tempo quello là. No, era una battuta per dire che per me quegli show, cioè non sono show musicali. Ma non è colpa di chi. Sono equivalenti al Grande Fratello. Sì, per me ma non è colpa di chi canta. Il personaggio è costruito, non è colpa degli artisti, poveretti, che proprio vengono usati e gettati. No, ma là c'è gente molto brava, sì, a cantare, certo, tecnicamente. Però è anche vero che la formula del dire cerca di farti vedere facendo una canzone degli altri, esatto, e poi fai anche la tua canzone di una compilation su 6 pezzi, 5 sì, sono degli altri, proprio, uno tuo pezzo. La formula è la formula, lo so, che è sbagliata. Ma se mi chiedessi di andare a suonare X Factor, a parte che non ho la tecnica per farlo, ma neanche mi interessa, però dico non andrei mai, no? Ma distantissimo dalle corde di uno che scrive per piacere, chiaro. Assolutamente. Paolo, scusa se ti ho interrotto. Scrivi per piacere? No, io scrivo perché mi piace suonare, ecco, e soprattutto mi piace suonare quello che vuole che suoni il limone. Nel senso che mi dà la corda, è perfetto. Sono ritornato adesso a suonare dopo una gran pausa dovuta. È bello suonare, di tornare a suonare. Sì, dovuta a per motivi diversi, lavoro, tante cose. E col limone adesso sto tornando fuori, mi sto divertendo. Fondamentalmente qual è il tuo strumento? Non lo so ancora. Devo ancora decidere. L'importante è che ci stia in macchina. Ci sta sicuramente. Questo è il concetto fondamentale. Diciamo la verità che Paolo suona molto bene la batteria, questo è il suo strumento. Però adesso suona anche il basso e la chitarra. Esatto, sì, stasera c'è il basso e questo strumento bellissimo. Sì, io nasco batterista e morirò batterista. Mi è sempre piaciuto quello. Come anche fisicamente sei ben messo fare batterista. Mi piace quello e continuerò a avere una predilezione per quello. Infatti, come mi avevi chiesto anni fa, i dischi da portare sono sempre quelli. Sono sempre questi: Red Hot Chili Peppers, sono Guns N' Roses, sono Pearl Jam, Nirvana. Quindi sono quelli i tuoi punti di riferimento. Quando avevo 10-12 anni, mio fratello aveva qualche anno in più, portava a casa questi dischi. Io ascoltavo quelli. Ho iniziato a suonare la batteria per colpa dei. Per colpa, Guns N' Roses, sì, grazie alla fortuna, sì, all'appoggio, sì, indiretto. Quindi porterai sempre quelli, poi magari anche un disco di Battisti, volentieri. Però. Ecco, Battisti è uno che non abbiamo citato, caro Limone, però secondo me il Battisti, l'ultima parte, può darsi che abbia un tuo punto di riferimento, qualche input. Cosa dici? Così, lontanamente, perché anche lui usava l'elettronica in modo diverso dalla tua, era molto più presente, possente l'elettronica. Dici che Battisti mi ha copiato? No, assolutamente no. L'ultimo Battisti lo hai ascoltato? Limone. Sì, sì, no, scherzo a parte, Battisti assieme a Rino Gaetano, assieme anche a qualche altro, anche Ivan Graziani. Battisti era un grosso innovatore, già all'epoca era innovatore anche musicalmente. E poi a me piaceva un sacco come cantava. Esattamente. Anche se Mogol all'inizio di carriera ha detto no, tu non sai cantare. Scrivi e basta, e poi le cose sono cambiate. E poi sono cambiate, sì. Anche se poi il connubio fra lui e Mogol, cioè, lo preferisco rispetto a lo so, Battisti. Perché lui... Io ho letto il libro di prima citava il libro di Montalbetti, cioè che era amico di Lucio. Montalbetti ha detto che era finito il connubio fra lui e Mogol, era finito. Lui, Lucio aveva bisogno di qualcosa di più e forse che Mogol non riusciva a dare. E per quello si è buttato con Pasquale Pannella, quindi la musica elettronica. Era un'esigenza sua. Era già partito l'ultimo disco con Mogol, aveva già le ali sull'altro percorso. No, può essere, ma sai, io noto che quando ascolto musica intensamente dopo 6-7 mesi mi viene qualcosa di simile. Perfetto, no, nel senso assorbo senza accorgermi, senza pensarci, in buona fede, quindi in buona può fede. Essere assolutamente. C'è un messaggio, Maurizio, sì, vai. Da un nostro, possiamo dire, fedelissimo ascoltatore, che è Gino, l'ascoltautore. Ah, bravissimo, e lo ringraziamo. Oltre che a salutare noi, mando un saluto a voi e a quel rapper di Limone, molto vicino alla musica cantautorale. Grandissimo intenditore di musica, comunque, Gino. Molto legato alla musica italiana, Gino, lo ascoltatore. È un talent scout proprio in tutti i scout, sì. Benissimo. Scopre e dà una mano ai musicisti emergenti. Sempre, l'ha sempre fatto da tanto tempo. E da tanto tempo, quando noi ospitiamo musicisti emergenti italiani che cantano in italiano, si mette subito all'attenzione e manda un suo messaggio. Anche perché io potrei essere il primo rapper che lui supporta, quindi, ecco. Quindi voglio dire, ho la strada spianata. Hai la strada spianata. Adesso cosa c'è in scaletta, caro Gil? In scaletta c'è la traccia 5, che è Proiettili di lana. Ah, proiettili. Quella sarebbe la 4. La 4, la 5 è un'altra. Però forse preferirei Vediamo. Manderei chi sono io. Chi sono io? Chi sono io? Mettiamo su chi sono io. Esatto. Allora mi devi dare il tempo che... Dunque, vuoi dare una piccola descrizione, un 30 secondi, caro Limone, oppure no? Di solito, quando sei davanti al pubblico... Io sono pronto, ragazzi. Sì, quando sei davanti al pubblico, presenti i pezzi. Quindi. Sì, io vorrei presentarli, però... Poi Paolo non vuole. La mia band mi proibisce. Cioè. No, Paolo non vuole. Poi spesso volentieri... Si perde la magia. Si perde, pensa di parlare con gente che lo conosce da 20 anni, e in realtà no. Sentiamo, allora, se non li presento. Sentiamo il pezzo, allora. Ok. Radio Veneto. SMS 346 2320 033. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Sì, mentre Limone prende la chitarra per il prossimo pezzo. Sì, un bello arrangiamento, sì, intimo fino a un certo punto di vista, un po' pomposo nel senso positivo, di impatto, possiamo dire questo. Sì. Bello, con un sacco di piccoli input che via via si allargavano per fare un finale di un certo tipo. Sì, un finale interrogativo. Interrogativo, sempre di un certo tipo. Question mark. Esatto, esatto. Esatto, sì. Esattamente. No, bello, interessante. Disco, cari ascoltatori, il disco di Limone è da ascoltare con attenzione, soprattutto con i testi, ma può essere accompagnato, come abbiamo detto e continuiamo a dirlo, da una musica delicata e deliziosa, anche quello. Dobbiamo tornare a Blu-ray. Dovete tornare, sì. Torniamoci tutti i giorni. Allora, sì. Facciamo una cosa. Adesso avete deciso di fare un pezzo breve, perché dopo presentiamo sì. Tutti i riferimenti discografici. Sì, beh, in realtà sono tutti e due brevi. Beh, intanto innanzitutto questo e poi sì. Ne parliamo. Il brano si intitola I cantautori moderni sono morti, non perché sono polemico. No, assolutamente. No, comunque è un brano dedicato ai nostri colleghi cantautori ed è un invito ai cantautori a cambiare argomento e parlare d'altro, oltre che d'amore. Esattamente. Però detto in modo molto felice, diciamo. Sono tutti morti i cantautori moderni, chi per il diabete, chi ha negato nel miele, e per far la rima nel paese del sole, questi cantautori spesso usavano un cuore. Se cambiassimo argomento, la condizione stretta dell'artista in ascensore, l'autista tabagista che fumava anche all'altare, la scienza del progresso che si interroga sui maghi, ma l'amore del commercialista che parlava con il nero, e l'arte di chi ama far l'amore in solitario, e Fazio che a Sanremo fa cantare anche Saviano. Ma l'amore mai d'amore non si muore, mai d'amore non si muore, mai d'amore non si muore, mai d'amore non si muore mai. Sono tutti morti i cantautori moderni, erano in Calabria a contare i forestali e per addolcire del sole, questi cantautori spesso usavano cuore, ma dico io per esempio, se cambiassimo argomento, la condizione stretta dell'artista in ascensore, l'autista tabagista che fumava anche all'altare, la scienza del progresso che si interroga sui maghi, ed il commercialista che parlava con il nero, e l'arte di chi ama far l'amore in solitario, e Fazio che a Sanremo fa cantare anche Saviano. Ma l'amore mai d'amore non si muore, mai d'amore non si muore, mai d'amore non si muore, mai d'amore. Si muore, mai d'amore non si muore mai. Blu Time. Blue Time. Cambio di strumento questa volta, Maurizio. Eh sì, esattamente. Sì, ma è messo anche una specie di piatto. Un Charleston. Sì, bello, sì, bello, interessante. È un invito, caro Limone, ai cantautori. Unito, tu sì. Che ami De Gregori, ha fatto poche rime su quell'amore baciate De Gregori, pochissime. Però... E quelle che ha scritto hanno anche un certo stile. È un certo stile, un certo senso. Sì, diciamo che dire mi manchi una canzone ormai. Ormai bene. Nel 2013. Nel 2013, ne abbiamo sentite talmente tante. Bene, adesso facciamo i riferimenti puntuali al disco, dove si può trovare il titolo, il produttore se c'è, eccetera, eccetera, eccetera. Dove l'avete inciso, negli studi, eccetera. Allora, oltre a casa tua. L'album è uscito a febbraio 2013 per la Dischi Soviet Studio. E si può trovare in qualsiasi negozio di disco. Perfetto. Nei migliori negozi di dischi. Esattamente. Nei migliorissimi negozi di dischi. Perché quelli, quelli che ci sono ancora. Esatto, quelli che ci sono migliorissimi. Nei migliorissimi negozi di dischi. Sì, è distribuito Audio Globe. Quindi, quindi un'ottima distribuzione. Esatto, quindi si può trovare. E poi tutti live, ovviamente. E poi tutti live nel sito www.limonemusic.com o anche sul Facebook di Limone. È abbastanza aggiornato, quindi anzi direi che è molto aggiornato. Anzi, hai qualche live da citare, ti ricordi qualche beh, giornata? Allora adesso qualche data, partiamo da venerdì 9, cioè quindi 9 agosto andiamo a, ci spostiamo fuori regione, andiamo a Lodi, a Lodi in Lombardia, poi il 10 ad Asiago, bene, quindi... e l'11 a Fara Vicentino, bene, l'Anguriara. C'è una festa? C'è una sagra, si chiama Anguriara di Fara, una molto molto bella, fanno suonare sempre tutti gli anni, bene. Tra 4 giorni, adesso l'edizione di quest'anno non so dirti, non si sa, però è già successo gli anni scorsi, sì, bene, sì, bene. Sì. Quindi bene, si sta muovendo qualcosa, dai Limone. Sì, sì, sì, sì, no, siamo felici perché quando suoniamo poi vedo che c'è sempre qualche contatto, che qualcosa, la gente partecipa, qualcosa che riparte, sì. Però non abbiamo la cassa di risonanza della televisione, quindi dobbiamo fare tutto passo dopo passo. Ma secondo me è più bello così. Ma fai tutto te o fate tutto voi praticamente? Tutto quanto manager, tutto quanto voi fate, sì. O no? Sì? Facciamo tutto noi, sì. Fate tutto voi. Ma così si deve fare. Dobbiamo economizzare gli sforzi, chiaramente. Assolutamente, sì. Questa macchina, possiamo dire macchina. Sì, giocattolo. Questo giocattolo, risparmiamo un sacco di musicisti, risparmiamo la batteria, risparmiamo spazio. Sì, a dire la verità abbiamo proprio collaudato l'auto, la sua auto. Ci sta tutto? In tre, usciamo in tre a portare via tutto. Quindi... non avete bisogno degli aiutanti? Allora. No, no, si fa tutto. No, no, no. Facciamo tutto internos. Che... Ecco, anche il piano, ma il piano è grande però. Però ci sta. Purtroppo... Quello non si può rimpicciolire. Questo ancora non siamo riusciti a... E mi dicevi che hai già qualche progetto pronto per il disco nuovo, Limone? Sì, ne parlavo prima con Paolo. In pizzeria con Paolo. Perché giustamente si parla in pizzeria di cose importanti, secondo certo. Me. Fa un po' di da mangiare. Sì, un po' abbiamo da mangiato alle 6:30, tra l'altro. Abbiamo mangiato quindi... prestissimo. Esatto. Sì, abbiamo già parecchie canzoni pronte che potrebbero essere registrate. Anche se adesso. La registrazione che farai sarà la stessa in casa tua, o però ci sarà un qualcosa di più? Questo ancora non si sa, dipende anche dai costi. Ci pensavamo prima, i costi. Non sappiamo se dare una veste acustica o elettronica. Elettronica. Ecco, lo svelo qua in anteprima. Non sappiamo ancora. Non hai ancora le idee chiare su questo punto di vista. No. I testi sì, li hai già scritti. Sì, no, le canzoni sono già scritte, ma nelle parti sono già scritte. Non sappiamo se dare un vestito estivo o autunnale. Dipende. Dipende, potrebbe essere anche un album per le 4 stagioni, voglio dire. Quindi un sacco di sì, è che in genere voce. Quando si mescolano tanti elementi poi... Non è sempre positivo. Non c'è mai una scelta alla base. Ci stiamo pensando. Beh, noi abbiamo scelto il tuo album adesso, abbiamo fatto noi una scelta. Ti è piaciuto molto. Quindi... Ecco, ma sono sicuro che poi torneremo anche per il secondo. Ma io esatto. Sono assolutamente convinto, vero Gil? Le porte sono apertissime. Ah, molto aperte. È sempre un piacere enorme. Ripetiamo il titolo dell'album allora, Limone. Spazio, tempo e circostanze. Benissimo, adesso abbiamo finito questa cavalcata di 1:30. Con cosa, Limone? Cosa terminiamo? Terminiamo con una Nina Nanna. Con una Nina Nanna, esattamente. Ed è una canzone che ho scritto e dedicato a Dente, un cantautore che non conosco. Che conosciamo noi, però. Che conoscete voi e quindi... Ci salutiamo adesso o ci salutiamo dopo? No, ci salutiamo adesso, lasciamo scorrere la musica di Limone, che si può anche allargarla fino ad arrivare alle fatidiche 22:30. Cosa dici, Limone? Allora, facciamo un allargamento. Che secondo me arriveremo alle 22:26, perché la canzone è molto, molto bella. Ma la puoi allargare a tuo piacere. Ok, faccio una idea. Allora procediamo con i saluti. Ok. Grazie a Limone. Grazie a voi. Grazie a Paolo. Grazie. Grazie a te, Gino. Grazie anche a te, Maurizio. Tra poco arriva Stefano Dainese con Rock Wave. È qui, esattamente. Ecco. E ci sentiamo alla prossima. Alla prossima. Tra un paio di settimane. Esattamente. Allora, ascoltiamoci, Limone. Questa titolo? Questa Nina Nanna dal titolo... Dente. Direttamente. E ci resto che anche Francesca non stia più con Paola. E ci resto che anche Giancarlo non stia più con Marta. E sembra che anche Michele si stia stancando. Ma del resto quando cade un dente ballava anche prima. Per te non è così. Semplicemente a cura di te.